Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma eccoci finalmente insieme, siamo tornati, abbiamo Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, io sono qua, già attivo il nostro numero verde 800 24 0024, i messaggi 349 238 6666, allora subito i titoli del nostro sommario e poi l'ospite di oggi. Che colore hanno le tue notti? Parliamone. Ernia addominale post-operatoria. Promosso l'approccio mini-invasivo. Spuntini per restare in forma. Qualità e quantità, due variabili che fanno la differenza anche e soprattutto per quanto riguarda il nostro sonno. Nutrimento per il nostro cervello, integratore, ma direi al tempo stesso cartina tornasole del nostro benessere. La domanda quindi, cari amici, sorge spontanea. Quante ore dormite e come dormite? Potete chiamare il nostro numero verde e oggi in studio con me il professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. E aggiungo anche autore insieme alla Campanelli di un libro molto utile che io vi consiglio, si intitola Sonno Perfetto, Sperling Kupfer. Vero professore, tanti consigli utili. E a proposito di utilità, il sonno è utile e necessario, ma professore è difficile dormire bene, alzarsi soprattutto la mattina e dire come mi sento riposato, no? Mi sento un leone, lo sappiamo per esperienza diretta e indiretta, i dati però dicono che quasi nessuno riesce a dormire bene, lei li sa ma io me li rileggo, una persona su cinque soffre di disturbi seri ma uno su tre comunque dorme male e non riesce a riposare in modo soddisfacente. Non è che siamo messi molto bene. Ma sì, non siamo messi molto bene, ma questo è proprio legato al fatto che il sonno è una di quelle funzioni importantissime, primarie dell'uomo, a cui viene, diciamo così, prestata poca attenzione. Nel senso che quando noi dobbiamo mangiare bene, e lo sfamarsi è un'altra funzione molto importante, una funzione primaria importante, noi dedichiamo del tempo e perdiamo del tempo per far questo. Il sonno invece pretendiamo sempre che ci arrivi così di colpo, uno va a letto, spegne la luce e pretende di dormire subito 7 ore di sonno interrotto. Questo purtroppo non è così, quindi dobbiamo dedicare un po' di tempo anche alla preparazione del nostro sonno, ad esempio il fatto di evitare nelle ore immediatamente precedenti il sonno le attività molto diciamo così intense che stimolano molto il nostro cervello, il fatto di evitare di stare davanti al computer che essendo uno schermo luminoso può crearci problemi perché inibisce il rilascio di melatonina, ecco tante piccole cose e noi a queste cose non facciamo attenzione, non prestiamo attenzione e quindi poi di conseguenza abbiamo sia la difficoltà ad addormentarci che poi appunto abbiamo difficoltà ad avere un sonno continuativo molto bello, diciamo così, molto stabile, ristoratore. Senta professore, però l'insonnia è un sintomo o possiamo considerarla una malattia? Perché è una spia, quando dormiamo male noi avvertiamo come se una spia si accendesse per dirci c'è qualche cosa che non va. Ma certo, allora possiamo dire che l'insonnia è una malattia, è di per sé una malattia e ci sono diverse forme di insonnia che vanno poi trattate anche in maniera diversa, proprio perché hanno delle cause diverse sottostanti. Esiste poi anche l'insonnia come sintomo. Allora c'è ad esempio, vorrei ricordare semplicemente il problema della depressione, dove spesso l'insonnia è caratterizzata dal risveglio precoce mattutino, ossia il soggetto dorme magari 3 ore, poi di colpo si sveglia, apre gli occhi, non riesce più assolutamente a riaddormentarsi. Ecco, questa insonnia con risveglio precoce mattutino è ad esempio una spia molto spesso di depressione e quindi in questo caso abbiamo, diciamo, l'insonnia che diventa proprio uno degli aspetti sintomatologici caratteristici della depressione. 800 24 0024, io professore ho aperto dicendo qualità e quantità per aiutare anche i nostri ascoltatori a raccontarci il loro sonno, ci aiuti lei ad aggiungere magari qualche dettaglio che riferito a lei potrebbe fare la differenza. Ma ecco, no, sicuramente i due aspetti, quantità e qualità, sono entrambi importanti. Questo perché? Allora, l'aspetto quantitativo è importante perché dormire in maniera sufficiente vuol dire avere tutte le fasi del sonno che sono necessarie al funzionamento del nostro organismo. Non dimentichiamo che nella prima parte della notte abbiamo soprattutto sonno profondo, che è quello che ci fa recuperare l'energia, quello importante per il recupero fisico. fisico. L'ultima parte del sonno è fondamentale invece perché è importante, perché compare in questa fase della notte il sonno REM, che è il sonno legato ai sogni, che è un sonno altrettanto importante. È importante soprattutto per il funzionamento del nostro cervello, nel senso che il sonno REM, che si chiama anche sonno paradosso, è caratterizzato dal fatto che il nostro cervello è molto attivo, lavora molto e in questo senso serve anche a migliorare quelle che sono le nostre prestazioni cognitive, a migliorare quella che è la nostra memoria, a migliorare proprio anche la nostra capacità di scegliere, di operare delle scelte durante il giorno. Diceva mia nonna, dormi bene perché la notte porta consigli, ma in realtà quando lei mi induceva a dormire in maniera sufficientemente lunga aveva ragione, perché oggi abbiamo scoperto che il 70% delle scelte che noi operiamo durante il giorno in realtà le facciamo proprio in virtù di quello che abbiamo elaborato durante la notte precedente. Allora, se al mattino quindi vi sentite stanchi, anche se avete la percezione di aver dormito, perché funziona anche così, oppure se vi risvegliate più volte durante la notte, avete risvegli anticipati o prima di addormentarvi vi girate e rigirate nel letto, non è solamente colpa del caldo, ma perché ci sono mille pensieri che affollano la vostra mente, 800 24 00 24, un numero verde per le notti bianche. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina per parlare di un problema che molti di voi mi hanno chiesto di trattare: l'ernia addominale post-operatoria, in termine tecnico la parocele, una complicanza abbastanza frequente perché secondo i dati 25.000 italiani all'anno dopo un intervento all'addome si trovano a fare i conti con questo problema. Ne parliamo oggi col dottor Stefano Bona dell'unità operativa di chirurgia generale terza dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Dottor Bona, bentornato, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Dottore, la prima domanda è: perché si forma la parocele? Si potrebbe evitare? La parocele è una conseguenza purtroppo difficilmente evitabile delle incisioni chirurgiche. Certamente una tecnica minuziosa di sutura è la prima cosa importante che il chirurgo deve seguire, ma ci sono dei fattori predisponenti all'insorgenza della parocele: sono l'obesità, sono le infezioni della ferita chirurgica, sono determinate malattie e anche la sede, il punto dove noi effettuiamo l'incisione sull'addome può avere un rischio più o meno alto. Dottor Bona, ma quali sono allora le zone più a rischio? Sono le incisioni sulla linea mediana dell'addome che sono più a rischio. Altre incisioni trasversali in altre sedi sono a rischio inferiore di laparocele. Ma dottore, questo laparocele, l'ernia addominale post-operatoria, quali rischi può comportare? In altre parole, è necessario sempre intervenire chirurgicamente oppure ci sono casi in cui si risolve da sola, può stare lì senza far danni? Il laparocele fondamentalmente è un'ernia. Si provoca la fuoriuscita del contenuto addominale, quindi dell'intestino, attraverso questo difetto nella parete muscolare addominale e quindi il paziente è esposto a dei disturbi, a dei fastidi, ma anche al rischio di incarceramento o di strozzamento di questa ernia, e questo diventa un problema che richiede un trattamento immediato e urgente, e quindi solitamente consigliabile provvedere alla riparazione della parocele prima di incorrere in queste complicazioni. Ovviamente l'indicazione deve essere però valutata anche rispetto alle condizioni del paziente, al rischio che si verifichi la complicanza e all'impatto che l'intervento di riparazione provoca. Un piccolo laparocele è un intervento da poco, un grande laparocele può essere un intervento molto complesso. Però la buona notizia è che l'ernia addominale può essere trattata con un approccio mini-invasivo, più rapido, con più vantaggi anche per il paziente. Questo senz'altro. L'evoluzione della tecnica mini-invasiva oggi ci ha portato ad utilizzarla anche in questo campo, nella riparazione delle ernie della parete addominale e anche nelle ernie postoperatorie, quindi della parocele. È un'indicazione che si è sviluppata in un secondo tempo, perché in un addome operato all'inizio avevamo paura ad affrontare la laparoscopia per la presenza di possibili aderenze, mentre oggi le aderenze intestinali vengono gestite in laparoscopia senza nessun problema. Il fatto di poter accedere alla cavità addominale con due o tre piccoli fori e attraverso questi fori inserire una rete, che è il mezzo con cui si riparano queste ernie addominali, questi laparoceli, ci consente di ridurre il trauma sulla parete del paziente e di ottenere una riparazione altrettanto valida e sicura. Dottor Bona, la ringrazio, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Pronto soccorso. Lascialo riposare un po', almeno si calma. Ma perché era nervoso? È un periodo che ha l'umore nero perché passa le notti in bianco. Ho capito, però non è solo lui che le passa in bianco, ce la fa passare anche a noi. Io mi sveglio 10 volte a notte. Ho preparato una ricetta di famiglia. Ho preparato un infuso per Mariano con valeriana, camomilla, un po' di brodo. E sei sicuro che funzioni? E come no, prova a sentire. Ma perché non riesci a dormire? Perché non dormi? Perché soprattutto non mi fai dormire? Cara, l'unico che dorme è un nipote di uno sferato. Capo, vi spiegherò tutto e sarò anche sintetico. Come disse il filo di nylon. Ah, dormi tu! Almeno tu che ci riesci. Capo, molto semplice. Io non riesco a dormire la notte, quindi quando vado al call center mi addormento durante l'orario di lavoro, ma dormendo lì poi torno in cella e non ho più sonno, quindi è un serpente che si morde la coda. Dai Goni, prendi un altro caffè, ho fatto apposta quello decaffeinato, sarò mica così stupida da fare il caffè alla sera, altrimenti non si dorme più. Ho sbagliato barattolo, ti ho già chiesto scusa, cosa devo fare ancora? Metto su un'altra tazza di camomilla. Guarda che questa è la quarta che facciamo, alla quinta tazza si rischia la overdose. Tanto lei lì che dorme tranquilla, noi qui a contare le stelle. E noi riprendiamo il passo con questi estratti da film, Umore nero per chi passa le notti in bianco, La sonnolenza mattutina, come descriveva il secondo passaggio, proprio perché si addormentava al call center, e poi questo caffè, attenzione al caffè alla sera, ma anche a un uso smodato di camomilla. Professore, 3 spunti diversi che fotografano però dei luoghi comuni, delle situazioni molto comuni. Certo, 3 spunti che ci indicano chiaramente qual è l'importanza del sonno, insomma. Nel bene o nel male, insomma, tutti noi abbiamo un rapporto diretto con il nostro sonno e ne parliamo magari appunto in famiglia, con gli amici, con i colleghi. Allora, l'umore, c'è uno stretto rapporto tra sonno e tono dell'umore. Come dicevo prima, ad esempio, il fatto di risvegliarsi presto al mattino è spesso la spia di un episodio depressivo che magari si manifesterà 15-20 giorni dopo. E quindi è una cosa a cui gli psichiatri fanno molta attenzione, quindi quando il soggetto dice mi sveglio alle 4 di mattina e non mi addormento più, ecco, questo soprattutto per chi soffre di episodi depressivi ricorrenti è una spia importante. E il rapporto con la depressione è importante anche per un altro aspetto. Ci sono tanti studi che hanno dimostrato come quando un soggetto depresso viene curato ma rimane il sintomo insonnia come sintomo residuo e quindi non viene risolto il problema dell'insonnia, anche se viene risolto il problema dell'umore, il rischio di ricadere in una depressione è molto alto. Molto più alto. E quindi ecco che è importante curare il sonno anche per evitare una ricaduta di tipo depressivo. La sonnolenza al mattino, l'altro spunto a cui si accennava prima. La sonnolenza al mattino è un aspetto importante che ci indica che cosa. La prima cosa che mi viene in mente è questa. Allora, sappiamo tutti che ci sono i soggetti che hanno uno spostamento in avanti del proprio sonno, cioè quelli che noi chiamiamo gufi, che se sono costretti a svegliarsi alle 7 del mattino come tutti i soggetti, ecco, stanno male, hanno sonnolenza, hanno nausea, questi sono i tipici soggetti che ad esempio al mattino non riuscirebbero mai a fare una buona colazione, proprio perché non hanno soltanto spostato in avanti il proprio sonno, ma anche quelle che sono ad esempio le necessità alimentari, e quindi questi soggetti cominciano a carburare bene alle 11 del mattino, quindi intorno a quest'ora, e cominciano ad avere fame, quindi desiderano fare una buona colazione proprio a quest'ora, ma non alle 7 del mattino. Io andrei a sentire i nostri ascoltatori che ci chiamano all'824 0024 e poi leggerò i messaggi, ne abbiamo tantissimi, sono arrivati al 349 238 6666, selezionerò quelli più interessanti. Intanto Luca dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, allora io mi sa che sono un gufo perché quando mi alzo al mattino sono più stanco di quando sono andato a dormire quasi, e poi... diciamo che non ho l'appetito per fare una buona colazione come si dovrebbe fare, che poi in seguito a un episodio che mi è capitato militare ho preso l'abitudine di farlo lo stesso, anche magari in maniera forzata, sì, perché ho avuto uno svenimento, il primo in vita mia, e allora da quel momento lì, volente o nolente, qualsiasi ora che mi alzo, un caffè latte, una brioche o qualcosa del genere la butta giù. Esatto. Ma Luca, che ha scoperto di essere un gufo, e per tutti quelli che stanno carburando adesso, ma i gufi cosa devono fare? Caro Luca, lei è, cioè, non dico sfortunato, è sfortunato perché purtroppo viviamo in una realtà dove chi ha una, diciamo, uno spostamento dell'orologio in avanti come lei, come tutti i gufi, o diciamo così indietro come tutte le allodole, quelli che andrebbero a letto alle 7 di sera però poi alle 4 del mattino sono già svegli, ecco, sono tutti un po' sfortunati. Perché? Perché spesso non si riesce a capire il dramma di questi soggetti. Questi soggetti sono soggetti assolutamente normali, che se hanno la fortuna di poter svolgere un lavoro adeguato a quello che è il proprio orologio biologico interno, non ci sono problemi. Cioè, quindi, se tutti i gufi potessero cominciare a lavorare alle 2 del pomeriggio e fare un lavoro pomeridiano serale, non ci sarebbero assolutamente problemi, anche perché il loro sonno è normalissimo, è semplicemente spostato in avanti. E questo però è, appunto, è preoccupante per chi invece non riesce a farlo, perché è costretto ad alzarsi presto al mattino, per 3-4 ore è praticamente distrutto. Non è soltanto il problema della colazione, ma è un problema proprio anche di affaticamento, perché non ha riposato in maniera giusta. E poi posso dare una spiegazione a Luca di questo svenimento che ha avuto. No, allora, cosa succede? Succede questo, che noi sappiamo che al mattino, sto parlando per quelli normali, soggetti normali con un normale ritmo sonno-veglia, in genere tendono verso le 5 del mattino ad avere un rialzo della pressione arteriosa. Perché? Perché verso le 5 del mattino aumenta il cortisolo e quindi il soggetto normale, quando si sveglia alle 7, è pimpante e pronto. Cosa succede invece in un gufo che è costretto a svegliarsi alle 7, alle 8 del mattino? Il cortisolo è ancora basso e quindi la pressione è ancora bassa, quindi non è soltanto un disagio di tipo, diciamo così, mentale, ma è anche un disagio proprio fisico, nel senso che c'è un'alterazione, appunto, dei valori pressori, per cui a volte questi soggetti rischiano magari, appunto, anche di avere degli svenimenti, proprio perché si trovano in una fase in cui dovrebbero dormire. Quando si svegliano il loro organismo non è pronto. Esattamente, non è pronto la veglia. Piero, da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Lei com'è, un gufetto o una allodola? Non saprei, piuttosto io mi sono un po' immedesimato in quella figura di quello che si sveglia presto al mattino e che non dorme più, quindi temo di essere un po' in vista di episodi di depressione. Per la verità io non ho mai dormito veramente bene e adesso in particolare, mentre prima magari dormivo non bene, poi recuperavo la notte successiva, insomma, perché poi adesso costantemente mi sveglio al mattino piuttosto presto e faccio fatica ad addormentarmi. Comunque, anche se mi riaddormento, al mattino non sono bello riposato per niente. E quindi io davo la colpa allo stress, al lavoro, alle preoccupazioni, come tutti. Certo. Però si è acuita un po' la situazione. E ecco, ho provato anche a parlarne col medico e mi ha prescritto prima una medicina, poi una seconda, che effettivamente fa un effetto, però certo di non Piero non è soddisfatto, professore. No, ecco, Piero, innanzitutto volevo tranquillizzarla. Io ho detto che spesso il fatto di svegliarsi presto al mattino è sintomo di depressione o comunque di deflessione del tono dell'umore, ma non sempre necessariamente così. Esistono soggetti che si svegliano presto perché? Perché le faccio l'altra situazione molto frequente. Quando noi andiamo a letto la sera, la parte più profonda del nostro sonno è rappresentata dalle prime 3-4 ore, poi dopo circa 3-4 ore il sonno tende ad alleggerirsi. Allora ci sono dei soggetti che magari vivono, appunto, un po' una sensazione di tensione perché c'hanno tanti problemi, eccetera. Allora, in questi soggetti l'alleggerimento del sonno in realtà si traduce in un risveglio completo e quindi il cervello comincia a lavorare, a pensare, ecco, domani cosa devo fare, devo fare questo, e quindi poi chiaramente quando si allerte, quando si tiene in tensione quello che è il nostro sistema di veglia, magari con queste preoccupazioni, sicuramente è difficilissimo riaddormentarsi. Ecco, ma lì, professore, prima di andare ai mercati, meglio alzarsi e andare o è meglio invece provare a girarsi dall'altra parte e riaddormentarsi? Se la cosa è molto frequente, è meglio parlarne col proprio medico e magari l'utilizzo di una blanda terapia che può prolungare il proprio sonno può essere la soluzione. Eccoci, siamo tornati, oggi ci occupiamo del nostro sonno. Voglio leggervi alcuni messaggi. Allora, cara Nicoletta, io dormo come una marmotta in letargo. Come mi metto nel letto riesco a dormire 12 ore filate, tanto tanto che alcune volte ho dovuto prendere il Provigil. Leggo proprio un messaggio che sembra, no, controcorrente rispetto a quelli che arrivano, perché di solito, no, si dice dormo poco, dormo male, troppo mi risveglio. No, invece sicuramente c'è anche un caso, il caso opposto. Sicuramente le insonnie sono sul piano, diciamo così, della prevalenza nella popolazione generale, sono sicuramente molto più frequenti e molto più di facile riscontro, ma esistono anche le situazioni opposte tipo questa. Allora, esistono i lungo dormitori, quelli che noi chiamiamo lungo dormitori, cioè soggetti che devono dormire 10, 11, 12 ore per star bene. Ecco, quindi questo non è assolutamente una patologia, è una situazione che è in contrapposizione a quella dei brevi dormitori, soggetti che dormono 3-4 ore, e noi abbiamo tanti esempi, soprattutto nella classe politica, di soggetti che dormono pochissimo. Dicono così, che dicono così, noi non però, sappiamo. Ecco, non sappiamo, però insomma, ecco, vorrei citarne uno che ormai, insomma, ecco, Andreotti, tanto sì, per citare una persona dice, che è al di fuori ormai dalle, si della, dice che è sempre stato un breve dormitore, 3-4 ore, quindi, ma soggetti che 3-4 ore riescono ad avere gli stessi benefici di quelli che ne dormono 7-8. Qual è però il problema della nostra ascoltatrice che ha inviato l'SMS? Lei dice prendo il Provigil. Il Provigil è modafinile, una sostanza che è uno psicostimolante ed è un farmaco sostanzialmente che noi utilizziamo nei casi di narcolessia, cioè quindi una patologia seria dove ci sono questi attacchi di sonno. Ecco, la mia raccomandazione è questa: non bisogna prendere questi psicostimolanti così soltanto per cercare di controbattere questa tendenza all'addormentamento. Bisogna sempre parlarne col proprio medico, se necessario fare degli esami sull'indicazione del medico, ma non prendere una pillola proprio per contrastare questa sonnolenza. Sono panettiere, dormo 4-5 ore a notte, la domenica 7-8 ore, ho 36 anni, iperteso, leggo proprio questo messaggio perché c'è questa parolina, e non avverto un gran bisogno di dormire di più. Mi sbaglio, è sufficiente? Massimo da Lecco. Professore, ma il nostro panettiere ha l'impressione che sia sufficiente, però poi in realtà la conseguenza è l'ipertensione arteriosa. Non dimentichiamoci che dormire vuol dire anche inibire il cortisolo è l'ormone dello stress, è quell'ormone che fa alzare la pressione arteriosa, e molto spesso questo lo vediamo in chi dorme poco, anche e soprattutto chi fa ad esempio lavoro notturno, purtroppo la conseguenza è questo maggior rischio di ipertensione arteriosa, proprio perché non si ha una buona inibizione del cortisolo. Io vorrei salutare il professor Claudio Corbellini, neurologo, docente di agopuntura all'Università di Pavia. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Professore, come viene inquadrata l'insonnia dalla medicina tradizionale cinese? La medicina tradizionale cinese vede la fisiologia vista dal punto di vista dello yin e lo yang. Sì. Tra l'altro sono stati proprio i precursori della cronobiologia, tanto che io avevo fatto venire al mio corso universitario all'Università di Pavia la maggiore cronobiologa, proprio per fare questo discorso di parallelismo. Sì. Praticamente noi abbiamo dei ritmi, della giornata, che ad esempio anticipano il risveglio e fanno sì che noi ci troviamo da un punto di vista di ormonale pronti per affrontare la giornata. Sì. Poi chiaramente quando viene la sera, quando è il momento di dormire, questo yang, perché lo yang è l'attività, è il sole e la luce, deve rientrare nello yin. Sì. Quando si ha un problema di sonno, si ha visto, secondo la fisiopatologia cinese, questo mancato rientro dello yang nello yin. Sì. Quindi noi dobbiamo fare un trattamento che poi è sempre specifico, perché l'importanza è di capire della medicina cinese, dell'agopuntura, che non si tratta mai di un trattamento standard, ma personalizzato. Persona, ma personalizzato, sì, per ristabilire questi equilibri. Senta, ma lei, professore, dov'è in questo momento che sento questi uccellini? È in un bosco? In questo momento sono nel giardino del mio club. Vede, perché noi col professor Ferini Strambi eravamo un po' incuriositi e un po' invidiosi, perché la immaginavamo... Molto invidiosi. Va bene, il professor Ferini Strambi, devo dire che è molto contento invece di essere qua in studio con me. No, certamente. Ecco. Allora, dato che abbiamo due approcci che sicuramente si integrano, ma medicina tradizionale cinese e invece medicina ufficiale, io vorrei sottoporre il caso di Tiziana D'Ancona. Non so che caso sia, ce lo descrive lei, perché ha chiamato l'824-0024, così dello stesso caso vediamo, diamo due letture, vediamo se si discostano o si sovrappongono. Tiziana, buongiorno. Buongiorno. Mettiamo alla prova i nostri esperti. Dunque, Comunque, no, io volevo chiedere, allora ho un figlio di 21 anni, studente universitario, che potendoselo permettere, lui ha scambiato il giorno con la notte, nel senso che lui fa molto tardi la sera, quindi va a dormire alle 6 di mattina e dorme per 12, 13, 14 ore di fila, fino a volte anche alle 6, alle 7 del pomeriggio. E volevo sapere se a lungo termine, allora premetto che è stato sempre in ritardo a scuola, ha avuto sempre problemi per svegliarsi la mattina, e un 7 in condotta proprio perché è arrivato per 5 anni alle superiori, 10 minuti sempre in ritardo a scuola. Sì. Volevo sapere se a lungo termine, appunto, però adesso forse ho avuto una mezza risposta dal professore sullo yin e lo yang, che probabilmente però credo che a lungo termine... Però Tiziana, se questo ragazzo va a letto alle 6 del mattino, ma io qua non voglio fare la mamma, voglio lasciare la parola al professor Ferini Strambi. Professore, poi sentiamo il professor Corbellini. Ma sicuramente cioè, la risposta è questa. Il ragazzo ha già un problema di orologio biologico interno che gli dà questa indicazione di andare a letto tardi, tant'è vero che è sempre arrivato tardi a scuola. Quindi è un po' gufo come caratteristica di cronotipo. E sicuramente, come spesso succede nei soggetti gufi, soprattutto i ragazzi, si fa presto poi a farsi prendere la mano e andare a letto sempre più tardi. Ecco, sicuramente lui non sarà mai un ragazzo che potrà andare a dormire alle 11 di sera e svegliarsi alle 7 del mattino. Però il fatto di consentirgli, diciamo così, in maniera assolutamente anarchica, di spostare in avanti addirittura a questi livelli il proprio sonno, è una cosa che poi può dare delle conseguenze, ma delle conseguenze in termini anche di vita sociale, perché o cambia diciamo atteggiamento e riuscirà a fare poi tra virgolette da grande un lavoro che gli consente appunto di continuare questo ritmo, ma altrimenti sicuramente avrà dei grossi problemi. E a livello della salute invece? No. A livello della salute sostanzialmente no, perché se uno segue questi ritmi sostanzialmente c'è soltanto lo spostamento dell'orologio, ma non, al di là di questo non succede nulla, purché riesca a dormire poi le 10 ore che come sta facendo ora. Quindi il suo consiglio, professore, che poi sentiamo anche il consiglio del professor Corbellini? Il mio consiglio è che piano piano bisognerebbe riportarlo, diciamo così, ad orari un pochino più umani e quindi... la madre svegliarlo, quindi certamente, lui invece che alle 6 arriva a casa alle 4 il giorno... Mia nonna invece applicava l'idea assolutamente opposta. Più mio zio tornava a casa tardi, più lei anticipava il risveglio al mattino. E lui mi racconta che era studente di medicina, c'erano dei giorni, delle notti, delle mattine in cui praticamente si sedeva sul letto e si rialzava. Ma erano altri tempi, perché mio zio era del 22, oggi ragazzi lavorano e vivono in modo diverso. Quindi lei dice anticipare. Professor Corbellini, lei che dice? Io sono pienamente d'accordo, nel senso che il fatto che sia sistematico rende il problema meno grave, perché ad esempio nei turni notturni una delle cose che vengono fatte all'estero è quello di far sì che il turno notturno non sia isolato ma si ristabilisca un nuovo equilibrio. Sì. Ma in generale il momento di dormire, il momento fisiologico di dormire è la notte, sì. Per cui, come diceva il professore, senza estremizzare, nel senso che non sarà mai una persona che andrà a dormire ad orari, diciamo, precoci, però bisogna cercare di riportarlo all'interno di un orario normale, anche per ragioni sociali. Poi volevo dire una cosa, sì. Che l'agopuntura è una medicina ufficiale a tutti gli effetti, riconosciuta dall'FDA, dall'INH, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con cui collaboro, per cui si tratta di un discorso di una medicina ufficiale e una medicina integrata. Senta professore, in quali casi di insonnia, prima di salutarle e andare a sentire che cosa succede sulle strade, in quali casi di tipi di insonnia l'agopuntura funziona meglio? Funziona in tutti i tipi di insonnia, ma proprio la cosa importante, la cosa più frequente, diciamo, è quella, l'insonnia di addormentamento, sì. Che è legata in genere a un problema di ansia. Sì. Quindi l'agopuntura dà il grosso vantaggio rispetto agli ipnotici di conservare il sonno REM. Il sonno REM è il sonno dei sogni, è quello che ci permette di stare bene, perché è proprio, diciamo così, una lavatrice, usiamo un termine, di tutto quello che succede durante il giorno. Certo. Infatti una delle tecniche di tortura è abolire questo sonno REM. Quindi l'agopuntura fa conservare questo sonno in modo che il sonno sia restauratore, perché l'importante non è tanto quanto ore si dormono, perché come ha detto prima anche il professore, varia da una persona all'altra. Ma come? Quando una persona si sveglia riposata. Professore, quindi io la qualità del sonno. La qualità del sonno, quindi per i casi di insonnia in cui la difficoltà, no, è nel momento dell'addormentamento, aghi, questo dovrebbero funzionare, quindi provate. 800 24 00 24. Professor Corbellini, la ringrazio, noi andiamo grazie a sentire a che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Giovanni ci chiama da Milano, buongiorno Giovanni. Buongiorno. Come si sente? Come si è svegliato stamattina? Riposato, fresco come una rosa, oppure guardi, uno straccio? Riposato è una parola grande. No, no, veramente stamattina ho fatto molta fatica, perché vabbè, sono andato a letto tardi. E comunque ho fatto molta fatica, ma questo mi succede, non dico spesso, però accade, perché io sono un cosiddetto chiamato impiegato del volante oppure un semplice autista di mezzo pesante, quindi ho degli orari molto sballati. Ci sono delle mattine in cui mi alzo alle 6 e altre in cui mi alzo alle 3 come le 4. Però la sera si va a letto sempre tardi, perché per fortuna sono sposato, ho dei figli, quindi comunque certo, a casa fino alle 11, 11 e mezza bene o male non si va a letto prima di quell'ora. Voglio imporre, quindi ha degli orari irregolari, no? Di sì, diciamo un po' per lavoro, un po' per famiglia. Il suo problema qual è, Giovanni? Che così passiamo la palla al professor Ferini Strambi. Sa che non ho sentito la domanda. Dicevo, il suo problema qual è? Il fatto che il questa discontinuità che, volentieri a volte non riesco a, dato che avete dato delle categorie, gufo, allodola e poi ho sentito la marmotta della signora, non riesco a capire dove mi riesco a collocare, perché ci sono, ad esempio, quando ho la possibilità di fare trasferte, quindi dormire fuori, io riesco ad andare a dormire presto, perché naturalmente non vado, mi alzo molto presto. Non ho i figli, quindi dormo tanto e ho, sento proprio il bisogno di dormire ancora, però naturalmente per necessità. Professore, allora, a Giovanni che aiuto si può dare? Un lavoro impegnativo, figli. Giovanni è la classica persona del privato, quello che noi chiamiamo privato, non depravato, ma privato di sonno. Privato di sonno nel senso che è la persona che vorrebbe dormire di più e voglio dire, ci riuscirebbe, come quando gli succede quando va in trasferta, però purtroppo non lo fa, perché ci sono problemi o di tipo lavorativo o di tipo familiare. Ecco, bisogna sempre stare attenti, cioè, perché purtroppo non si riesce ad ottenere da un sonno molto breve tutto quello che si può ottenere da un sonno normale. Quindi secondo me bisogna scegliere una giusta via di mezzo, anche quando è a casa, purtroppo rinunciare magari a una mezz'oretta, un'oretta con i propri figli, ma sicuramente soprattutto per lei che guida e che quindi deve avere un livello di attenzione sempre alto, è molto molto importante che dorma in maniera sufficiente. Io voglio leggerle un messaggio. Ogni volta che ci occupiamo di sonno capita e mi viene descritta una situazione di questo tipo. L'ascoltatore scrive: mi capita spesso di essere sveglia ma che il mio corpo non risponda, come se avessi la mente sveglia e il corpo che dorme. È davvero sconvolgente. È normale? Come si può evitare, allora, professore? Questa è la situazione che si chiama paralisi da sonno ed è veramente una situazione sconvolgente. L'ho vissuta anch'io molti anni fa, quando ero un giovane neolaureato che portava avanti una ricerca che mi costringeva a stare sveglio magari per 48 ore di seguito, ed è legato al fatto che il soggetto si sveglia in una fase di sonno particolare, per cui il corpo rimane completamente paralizzato, ma la mente è subito attiva. E questo succede appunto quando ci si risveglia, ad esempio, da una fase di sonno REM, ma non si ha un risveglio completo. Durante il sonno REM si ha la completa paralisi dei muscoli e quindi il cervello si riattiva subito, ma la parte, diciamo, periferica, quella dei muscoli, è come se, diciamo così, facesse più fatica e quindi si riattivasse tardivamente. È una sensazione molto angosciante, perché, ripeto, l'ho provata io in prima persona e quindi posso testimoniarlo direttamente. Non è assolutamente preoccupante, perché poi questi soggetti nel giro di pochi secondi riescono comunque a riattivarsi. Se sono molto frequenti queste situazioni, ci si può rivolgere a uno specialista in medicina del sonno e si può eventualmente anche valutare la possibilità di una terapia. Anna, buongiorno, ci chiama da Pisa. Buongiorno. Santa, io ho un problema di, diciamo, probabilmente di marmottite, nel senso che dormo molto. Ho sempre dormito molto fin da bambina, se non dormivo abbastanza mi veniva la febbre. Sì. E però ho sempre sonno. Cioè, perché non sonno vorrei... chiama sonno, dicevano sempre le nostre nonne, sì. Professore. Allora, sì. Anna... E poi durante la notte mi posso svegliare in maniera subitanea se ci sono degli indizi esterni di pericolo, tipo urla anche lontane o odore di fumo, cose di questo genere. Mentre per rumori normali, anche forti, non mi sveglio. Però appunto di giorno ho sempre sonno. Ecco, sicuramente le situazioni di eccessiva sonnolenza diurna molte volte sono, diciamo così, riferibili a una situazione di quella che noi chiamiamo ipersonia idiopatica, cioè i soggetti che dormono tantissimo, 8, 10, 12 ore, che vorrebbero dormire ancora di più durante la giornata, ed è una condizione, diciamo così, fortunatamente non è rara come condizione, ma è una condizione che anche qui può essere valutata in un centro specializzato ed eventualmente anche trattata, soprattutto se al soggetto questa eccessiva sonnolenza crea pesa. Problemi sia in termini sociali che in termini lavorativi, ed è sicuramente una situazione che va differenziata, ma è una cosa completamente diversa da quell'altra situazione che è la narcolessia, dove invece i soggetti hanno proprio questi attacchi, brevi attacchi di sonno durante la giornata, dormono 5-10 minuti, sono completamente questi sonnellini ristoratori, nel senso che il soggetto con 5-10 minuti poi ritorna ad essere, diciamo, normale, ed è questa una situazione completamente diversa che va comunque tenuta in considerazione e che va discussa con uno specialista. Un minuto alla chiusura, giusto il tempo per sentire Simone da Como. Buongiorno Simone. Capito proprio a pennello, perché io volevo esprimere questo. Sono una lodola, sintetizzando, mi sveglio presto al mattino e ho il cervello che funziona, cortisolo che va. Tutto a posto? Tutto a posto, però troppo presto, tipo verso le 5:30, 6. Durante il giorno ho proprio questi colpi di microsonno ristoratori. Mi chiedevo cosa si poteva fare per ristabilire magari un'ora di più la mattina e non avere i colpi di sonno durante il giorno, che a volte mi hanno creato parecchi problemi. E certo, sono anche pericolosi. Sono anche pericolosi, ma ecco, è difficile, diciamo così, comandare in maniera il proprio orologio biologico interno, perché se lei alle 5 del mattino è già sveglio, è già pimpante, perché appunto è un'allodola, ecco, chiaramente non, è difficile, diciamo così, modificare questa ritmicità. Sicuramente quello che si può fare durante il giorno, visto che a volte questa tendenza ad avere questi sonnellini, è programmarli, cioè fare prima una sorta di programmazione, cioè quindi decidere che ad orari fissi, ad esempio, uno cerca di scaricare proprio questa esigenza del sonno, e quindi fare dei sonnellini programmati, non so, alle 11 del mattino, alle 3 del pomeriggio, 5-10 minuti, proprio per scaricare questa esigenza del sonno, e questo magari evita poi di avere l'addormentamento in situazioni pericolose, e questa è una strategia che si può adottare. Professor Ferini Strambi, la ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere. Il piacere è mio, perché sa che mi piace parlare di medicina del sonno, perché dormiamo tanto, ma di sonno spesso se ne parla poco, e quindi mi fa sempre piacere partecipare a queste trasmissioni. Allora, noi ci aspettiamo domani, come sempre, dopo il GR delle 11, di spuntini, li avevamo previsto, di spuntini che aiutano a mantenersi in forma, parliamo domani, tanto ci sentiamo, e quindi a domani. Essere e benessere.